Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko 103.1 MHz, modulazione di frequenza stereofonica da Bologna. Poi siamo anche sul web naturalmente con l'apposita app che potete tranquillamente e gratuitamente scaricare dal sito della radio, radiocittafujiko.it. Questa app vi dà la possibilità di ascoltarci in tutto il mondo e dal primo gennaio ufficiale siamo anche in diverse province lombarde, per cui un saluto agli amici lombardi che ci stanno ascoltando in questo momento. La trasmissione che al mercoledì inizia alle 10.30 si chiama Città Fujiko Live Club e si preoccupa di farvi ascoltare un paio di ore di musica registrata live di tutte le epoche e di quasi tutti i generi. Naturalmente, visto che è la prima trasmissione dell'anno, un doveroso augurio di un felicissimo, grandioso e musicalissimo 2026. Una scusa che vi devo, avevo dato appuntamento al 7 gennaio, ma purtroppo per motivi di sciatica, diciamo così, non sono potuto essere presente e anche oggi non è che sia messo benissimo. Comunque, oggi è la prima trasmissione dell'anno e, come da tempo immemore, la prima trasmissione dell'anno è dedicata al best dell'anno precedente, per cui oggi la trasmissione ha un titolo, si chiama The Best of 2025. E il best inizia sempre con quello che secondo me è il disco, sono ancora l'antico disco uscito lo scorso anno, ed è un rifacimento, in pratica si muove molto sulla falsa riga, direi quasi non in fotocopia ma circa, di un album che uscì tantissimi anni fa, che si chiamava Mad Dogs and Englishmen, un album che vedeva come titolare Joe Cocker, ma che aveva tantissimi musicisti al proprio interno veramente notevoli, tipo Leon Russell. E nel 2015 la Tedeschi Trucks Band, insieme a Leon Russell e alcuni reduci da quell'epoca, hanno rivisitato quell'album in occasione di un festival che si chiama Locken Festival, che viene effettuato ogni anno ad Arlington in Virginia. Appunto nel 2015 rifecero insieme questo album, nel 2019 rifecero invece Laila, ma questa è un'altra storia, perché oggi questo Mad Dogs and Englishmen Revisited è stato pubblicato lo scorso anno e secondo me è il miglior disco dello scorso anno. Devo dire che ha avuto un paio di seri contendenti che ci ascolteremo nel corso della trasmissione, ma visto che ci sono tantissime cose da ascoltare, poche chiacchiere, molta musica, Tedeschi Trucks Band, è fondata dai due coniugi Susan ed Eric nel 2010. È una big band con tanti elementi, fiati, tre coristi, eccetera, eccetera, eccetera. Sono una delle mie band preferite ormai da diversi anni. Ci andiamo ad ascoltare in questo caso, lo ripeto, la rivisitazione di Mad Dogs and Englishmen, uno dei brani di punta di quell'album originale, ma anche di questo. Si chiama Delta Lady. Yeah. Miglior album del 2025, per chi vi sta parlando, Lyla Revisited, scusate, Mad Dogs and Englishmen Revisited at Locken Festival, il tutto dalla Tedeschi Trucks Band che l'hanno pubblicato nel settembre dello scorso anno, il 12 settembre per la precisione. A questo punto andiamo ad ascoltarci alcune delle cose migliori uscite nello scorso anno e come ormai da tempo immemore, la divisione che io faccio anche nella mia catalogazione casalinga è isole britanniche, Nord America e resto del mondo. Quindi iniziamo dal resto del mondo in questo caso. Resto del mondo che comprende anche l'Italia, e che però in questo caso comincia con una band australiana, band che viene da Melbourne e che si chiama Teskey Brothers, infatti i fratelli Josh, chitarrista e cantante, e Sam, chitarrista, hanno fondato questa band nel 2008, hanno fatto 6 album, di cui 3 album live, infatti è una delle mie band preferite proprio per quello. L'ultimo di questi si chiama Live the Hammersmith Apollo, è stato registrato dall'11 al 13 settembre 2024 nell'omonimo locale londinese, è stato pubblicato l'11 luglio dello scorso anno. E ce ne andiamo ad ascoltare. Un avviso, chi segue le mie trasmissioni sa che solitamente amo molto i pezzi lunghi. Oggi, per far stare più cose, invece avremo dei pezzi corti, tipo questo: Teskey Brothers, Forever You and Me. Someday, maybe I'll be older, but I feel just the same. It's not the land I'm missing, not the trees that grow and sway. It's some memories of laughter and the friends that shared this change. But it could be forever, a lifetime spent together. It could be forever, you and me. Well, memories are made here, not just stay ingrained. As people go and lives change, the forest remains the same. It's not the land I'm missing, not the trees that grow and fade. It's the memories of matter and the friends that share this change. But it could be forever, a lifetime. Battagliero, un sepolcro al cimitero ricoperto di lilla. Battagliero, uno sguardo ardito e fiero che rincorre l'aldilà. salverà dal cielo. Il fucile mitragliero nel manipolo guerriero lo potrà resuscitare. Corre in cielo, corre in cielo, oh battagliero, battagliero. Un concorso al ministero segna la maturità. Battagliero, rispettoso, lusinghiero, il giudizio che si dà non lo salverà dal cielo. Il suo lucido pensiero, disinvolto faccendiero del potere che verrà. Apprendista dell'impero, oh battagliero. Battagliero, il serraglio di un impero con un limite d'età. Battagliero, un giaccone color nero marca la diversità. Non lo salverà dal cielo il suo lucido pensiero, il furore bandolero, il potere che non ha. Aspirante guerrigliero, non lo salverà dal cielo il fucile mitragliero, il furore bandolero, il potere che non ha. Corre in cielo, corre in cielo, oh battagliero. Corre in cielo, corre in cielo, oh battagliero. E così già da un paio d'anni abbiamo visto, rivisto in azione i CCCP, Fedeli alla Linea, gruppo che, come tutti voi saprete, arriva da Reggio Emilia, anche se in realtà il nucleo Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni sono trovati in quel di Berlino e là hanno creato l'idea di questo gruppo. E sono stati attivi dal 1982 al 1990, ma poi sono ritornati insieme perché è stata organizzata una mostra che si chiamava Felicitazioni Fedeli alla Linea 1984-2024 e in quell'occasione fecero un concerto al Teatro Valli di Reggio Emilia, concerto chiamato Gran Galà Panchettone. Era esattamente il 21 e il 22 ottobre del 2023. L'album è stato pubblicato lo scorso anno, una delle migliori cose italiane, l'unica che ascolterete oggi, e il brano naturalmente si chiama O Battagliero. Ed è tutto per quello che io definisco il resto del mondo. Passiamo alle isole britanniche, intese nel senso di Gran Bretagna come isola, e chiamiamola anche Inghilterra se volete, ma c'è anche il Galles e anche la Scozia e anche naturalmente l'Irlanda, sia Repubblica Irlandese che Irlanda del Nord appartenente alla Gran Bretagna. Sono usciti diversi album, tutti molto interessanti, ma alcuni di questi con l'accompagnamento di un'orchestra. È il caso, il primo caso che ci ascoltiamo è quello di Florence and the Machine, una band che arriva da Londra, che è attiva dal 2007, che è conosciutissima, amatissima soprattutto dalle ragazze giovani di giovani generazioni. Questo Symphony of the Lungs è stato registrato insieme alla Jazz Buckley and His Orchestra è stato registrato alla Royal Albert Hall l'11 settembre del 2024 e pubblicato il 14 marzo scorso del 2025, naturalmente. Il brano che ho scelto per voi è un super classico di Florence and the Machine, della sua produzione, si chiama Dog's Days Are Over. Know what to do here, don't you? Does everybody know they're just gonna put their phones away now and be with each other in this room? And then you know what to do, right? When the song, yeah, you've got it, you've got it. Sisters and brothers, he by love and your longing behind. You can't carry it with you if you want to survive. The dark sing myself to sleep. A song from the darkest hour. Secrets I can't keep inside of the day. I swing from high to deep, extremes of sweet and sour. I hope that God exists. I hope, I pray. Drawn by the undertow, my life is out of control. I believe this wave will bear my weight, so let it flow. Or sit down, or sit down, or sit down. Sit down next to me. Sit down, down, down, down, down in sympathy. Hear that you've been to some far out places. It's hard to carry on when you feel all alone. The wisdom that I seek has been found in the strangest spaces. It feels a lot like love that I feel for you. Now I've swung back down again. It's worse than it was before. If I hadn't seen such riches, I could live with being poor. Oh, sit down, oh, sit down, oh, sit down. Sit down next to me. Sit down, down, down, down. Those who feel the breath of sadness, sit down next to me. Those who find they're touched by madness, sit down next to me. Those who find themselves ridiculous, sit down next to me. In love, in fear, in hate, in tears. In love, in fear, in hate, in tears. In love, in fear, in hate, in tears. In love, in fear, in hate. Anche i James hanno registrato un album live con l'orchestra, esattamente la Orca 22 Orchestra, e insieme anche al Manchester Inspirational Choice Voices Choir. Il tutto è stato pubblicato nel febbraio dello scorso anno, ma è stato registrato in un posto magnifico che è l'Odeon di Erode Attico, sul Lycabetto ad Atene, naturalmente sull'Acropoli in pratica, in Grecia, il 10 luglio del 2023. La band viene da Manchester, Tim Booth è sempre, da sempre il leader di questa notissima band in Gran Bretagna, un po' meno nel resto del mondo. Sit Down, è uno dei loro grandi classici in questa versione un po' sinfonica, appunto, ma è sempre di una bellezza accattivante. Loro si chiamano James. Late. Instead of kicking leaves late, hunker down until you find a spark. Make time to make good stories, to write a fireside song. Put a spring in your step, go out and have some fun. Good times and carry-ons, the slide left in the day. Enough to bloom, to know so deep inside. Questo è stato un pretendente fortissimo ad album dell'anno, sempre per quel che mi riguarda. Si chiama Are We Nearly Yet? Live Around the World. titolare di questo doppio dischetto splendido, è una band che si chiama Big Big Train, band che partì nel 1990 da Bournemouth in Gran Bretagna, ma poi col passare del tempo fa defezioni e morti, è diventata una multinazionale. Infatti l'unico membro originale è rimasto il bassista Gregory Spoton, e poi ci sono svedesi, francesi, italiani. Infatti il cantante che avete sentito si chiama Alberto Bravin e oltre a cantare suona la chitarra e le tastiere, viene da Trieste ed è diventato uno dei fulcri principali di questa band, che è veramente notevole. Per tantissimo tempo non ha fatto concerti, poi nel 2016 ha iniziato a fare tours regolari e da quel momento ha pubblicato 7 album live, tutti più o meno doppi. Questo è uno di quelli, appunto, bellissimo, molto progressive per gli amanti del genere come il sottoscritto. E questo è l'ultimo, è stato pubblicato il 25 settembre dello scorso anno e il brano che ci siamo ascoltati si chiama Skates On. Prima ci siamo ascoltati un paio di brani di artisti e bands con l'orchestra, in questo caso invece abbiamo solamente gli strings, solamente gli archi. Infatti questo album si chiama Stair Sailors with Strings, Live from Liverpool. Stair Sailor è il nome della band, arriva dal Cheshire in Gran Bretagna, è stata attiva dal 2000 al 2009, poi sono sciolti per qualche tempo, ma si sono riformati nel 2014 con lo stesso line-up precedente, più qualche touring member che li aiutano durante in concerti, ma il fulcro è rimasto quello. Hanno fatto un solo album live, che è quello che ci andremo ad ascoltare adesso, che vi ho già detto, è stato registrato al Tung Auditorium di Liverpool il 15 febbraio 2025, quindi fra un po' sarà un anno. Il pezzo che ci andiamo ad ascoltare è quello che apre tutto l'album, si chiama Alcoholic, loro invece si chiamano Stair Sailor. Don't you know you've got your daddy's eyes? Daddy was an alcoholic. But your mother kept it all inside. She threw it all away. I was looking for another you, and I found for another you. When I looked round, you were gone. Stay by my side in the pine. Dream is yours now. Stay by my side in the for

Anche nel 2025, come capita da diversi anni a questa parte, è stato infarcito, oserei dire, di ristampe. Questa è una delle migliori, una delle più belle, una delle mie preferite, se non la preferita. Loro, la band, è quella dei Gentle Giant, fondata dai tre fratelli Shulman nel 1970, poi sono sciolti nel 1980. Una delle punte di diamante del progressive britannico, Playing the Fool, fu il loro primo album, un doppio long play che uscì nel gennaio del 77. È stato ripubblicato lo scorso anno in versione 2 CD, con brani aggiunti naturalmente, nel febbraio dello scorso anno. L'album è stato registrato in diverse location, non è dato sapere esattamente quali, ma il brano che ci siamo ascoltati lo sappiamo esattamente, si chiama On Reflection. Spesso ci sono categorie musicali, intendo, che lasciano un po' il tempo che trovano. Questa si chiama folk punk. Quando si parla di questo genere, la mente va subito ai Pogues, ma ci sono tantissime altre band che su questo genere. Una delle migliori, a mio avviso, si chiama The Man They Couldn't Hang. Già il nome è un programma, gli uomini che non poterono impiccare. Tutto riferito a Babacombe Lee, che è una storia lunga e complicata che un giorno vi dirò. E loro vengono dalla Gran Bretagna, da diverse città della Gran Bretagna, sono stati attivi dal 1984 al 1991, poi sono riformati nel 96 e sono tuttora vivi e vegeti, tanto che hanno pubblicato un album live che si chiama Live the Crawford Arms, il loro quarto album live della loro discografia. Il Crawford Arms è un pub praticamente che è a Milton Keynes, un sobborgo londinese. Il tutto è stato registrato il 4 ottobre del 2024 ed è stato pubblicato il 4 novembre invece del 2025. E uno dei classici, fra virgolette naturalmente, di The Man That Couldn't Hang è questo pezzo che si chiama A Night to Remember. It was a night to remember, but I guess I just forgot. When I counted out my blessings, I found I was one short. As the evening passed me by, I didn't realize the time. I guess I must have let you slip my mind. So don't pass me by. Say you're going away. Don't say goodbye. Made you a promise that you said. Well, I was always the one. Una delle sorprese dell'anno, la pubblicazione di questo extended play dei Led Zeppelin, quattro brani che sono stati registrati, due a Earls Court nel 1975 e due a Nebworth nel 1979, fra cui questa Seek Again che ci siamo ascoltati. La domanda a questo punto è sempre quella: perché un extended play? Ma pubblicate tutto il concerto, errori compresi. Ma questa è una richiesta da una persona bulimica per quel che riguarda la musica live. Abbiamo concluso questa parte parzialmente, questa parte dedicata alla Gran Bretagna, dopo capirete perché, alle isole britanniche per meglio dire. Ci sarebbero ancora tantissime altre cose da ascoltare. Steve Littlefingers con la ristampa del loro primo album con allegato un dischetto dal vivo, Simple Minds col nuovo album registrato ad Amsterdam, Radiohead, l'avvenimento musicale bolognese dell'anno con una serie di registrazioni degli anni 90, i Kinks con una raccolta, Magnum invece un album nuovo e Gary Moore ripescato, un Gary Moore fa sempre bene, ma il tempo è tiranno e dobbiamo passare ad altro, fra cui la doverosa pubblicità. Give me a ticket for an aeroplane. Oh, I ain't got time to take no fast train. Oh, my lonely days are gone, I'm coming home. Oh, baby, rock me like a don't care how much I got to spend. È doveroso che in questa rassegna del Best del 2025 la prima e la seconda parte siano aperti da quelle che io reputo la prima e la seconda parte da quello che io reputo il Best dello scorso anno. Tedeschi Trucks Band rifecero nel 2015, rifecero parzialmente Mad Dogs and Englishmen, favoloso album degli anni 70 di Joe Cocker. Lo rifecero insieme a Leon Russell, che partecipò a quella kermesse, chiamiamola così. E l'album però è stato pubblicato nel settembre del 2025 e quindi appartiene di diritto a quell'anno. Il brano che ci siamo ascoltati è il brano di apertura, si chiama The Letter. Come vi dicevo, non è stato rifatto interamente pedissequamente Mad Dogs and Englishmen, mancano alcuni pezzi, ce ne sono altri che originariamente non c'erano, ma è sicuramente un album splendido. E prima eravamo nel territorio isole britanniche, per spostarci in territorio nordamericano usiamo un escamotage, cioè un cantante britannico che oramai da diversi anni vive a San Luis Obispo, posto splendido in California. Lui è John Anderson, indimenticato cantante degli Yes, poi ci sono stati un po' di problemi che non staremo qui a disquisire, ma adesso appunto vive a San Luis Obispo e gira per gli Stati Uniti principalmente con una band che si chiama Band Jigs. Hanno pubblicato un album che si chiama Live Perpetual Change, non ci crederete, ma sono tutti canzoni degli Yes, anche perché le ha scritte John Anderson parzialmente. Sono due CD più DVD veramente notevoli, che è stato pubblicato lo scorso anno il 14 marzo, mentre in realtà è stato registrato a St. Charles in Illinois il 12 maggio del 2023. Il brano più corto per forza, Your Move, I've Seen All Good People, John Anderson e Ben Jigs. Got time to make you a wife. fine, I'm on my way. I've seen all good people turn their heads each day, so satisfied, I'm on my way. I've seen all good people turn their heads each day, so satisfied, I'm on my way. John Anderson, quindi, accompagnato dalla band Gix, ci ha trasportato dalla Gran Bretagna al Nord America e per meglio dire dalle isole britanniche al Nord America, comprendente anche naturalmente il Canada. E così arriviamo all'altra sorpresa del 2025 e altro album che è stato impredicato per essere album dell'anno. Una band fino a me, fino a poco tempo fa, a me sconosciuta, si chiamano Bywater Call. Sono sette elementi che arrivano da Toronto in Canada e sono attivi dal 2017, hanno fatto quattro albums e per colpa mia ne ero assolutamente all'oscuro, l'ultimo dei quali è questo che è dal vivo, si chiama Sunshine Live in 2024. È stato registrato in diverse occasioni, fra parentesi anche nella loro città natale, appunto Toronto. Per essere un CD è un po' corto, diciamo che è un mini CD, è stato pubblicato il 1 agosto dello scorso anno ed è veramente molto molto molto interessante, ve lo consiglio caldamente. E come esempio, diciamo, eclatante è questo primo brano, che è il primo dell'album, si chiama Sunshine, loro si chiamano Bywater Call. Never gave a damn. She said, I'm better than your kind, heading down the southern line for a brighter day. Oh yeah. Oh sure, what you find? Now she's spending all her time living in a daydream underneath the highway. But she's still searching for miracles out in the sun. He tried to tape us under nine on the sly, always looking for a skirt. Hey. Got a house down by the beach, got him rich, got the pretty young things alone. Yeah, yeah. Now the wife and kids are gone, and the ladies don't want none. He's crying out in Ocean Day, dreaming of his home. Altro album con l'orchestra, si chiama semplicemente Letius with the Colorado Symphony. Letius è il nome della band, sarebbe la lattuga detta in italiano. È una band quasi esclusivamente strumentale, molto funky, molto molto interessante questo dischetto, doppio dischetto anzi, che vede in azione questa band che arriva da Boston ed è attiva dal 1992. Ha fatto diversi album live, questo è il quarto per la precisione, è stato pubblicato il 28 febbraio scorso e è stato registrato a Denver in Colorado, appunto con la Colorado Symphony Orchestra, e il brano che ci siamo ascoltati si chiama The Lobbyist. Mr. Dave Alvin, che molti di voi ricorderanno coi Blasters e poi con una carriera solista molto molto interessante, per esplorare la parte più diciamo più psichedelica della propria musica ha assemblato una band che si chiama Third Mind, terza mente, ed è questo Live Mind è il loro terzo album, è stato pubblicato il 14 febbraio dell'anno scorso, ma è stato registrato in diverse location fra febbraio e marzo del 2024. Come dicevo, psichedelia go go sulla scia dei Grateful Dead, brani molto lunghi, l'unico corto che ci andiamo ad ascoltare per arrivare alla pubblicità è questo, si chiama A Little Bit of Rain, loro invece si chiamano Third Mind, l'album si chiama Live Mind. Days filled with sunshine. And just a little bit of rain. Just a little bit of rain. Mm-hmm. Just a little bit of rain. Just a little bit of rain. Thank you, Manchester, for a beautiful night. Woo! Great audience, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Always still a little nervous on that first night, you know. Takes a little getting used to. Even after all this time. Take this home with you. Far between sundown's finish and midnight's broken toll, we ducked inside a doorway, thunder crashing. As majestic bales of bolts struck shadows in the sound, seemed to be the chimes of freedom flashing, flashing for the warriors whose strength is not to fight, flashing for the refugees on their unarmed road of flight, and for each and every underdog soldier. We gazed upon the chimes of freedom flashing. Come on, man! Even through a cloud-wide curtain, where a far-off corner flash, hypnotic splattered mist was slowly lifted. Electric lights still struck like arrows. Or else be kept from drifting. Tolling for the searching ones on the speechless seeking trail. For the lonesome hiding lovers with two personal tales. Recall when we were caught, trapped by no track of ours, for they hang suspended. As we listened one last time, and we watched with one last look, spellbound and swallowed till the tolling ended. Yeah. L'avvenimento musicale dell'anno, per quel che mi riguarda, Bruce Springsteen, E Street Band, in concerto qui in Europa, ma soprattutto in Italia. Però prima è stato in quel di Manchester, era esattamente il 14 maggio del 2025, e da quella serata è stato tratto questo extended play. Sono solamente 6 brani, 2 poi sono introduzioni, quindi i brani in realtà sono solamente 4. E mostrano appieno quello che è la potenza musicale di questa mega, di questa super band, perché poi anche mega, perché sono tantissimi sul palco. Fra parentesi, per questo tour Bruce ha rispolverato Chimes of Freedom, che è un brano di Bob Dylan che già fece a suo tempo con Human Rights Tour, insieme a Peter Gabriel, insieme a diversi altri. Il tutto è stato pubblicato solamente in download, non è la prima volta che Bruce lo fa, è ormai un vezzo che molti hanno, che a me non piace, perché io sono un feticista, mi piace avere il long play, mi piace avere tutto quello che si può avere in fisico, ma comunque quando si deve, come in questo caso, si registra. Fra l'altro si scarica. Fra l'altro Bruce era parecchio incazzato in questo tour con il suo governo, ed ha fatto qualche invettiva contro il proprio governo, e mi sono molto meravigliato che l'abbiano fatto ritornare in patria. Un'altra ristampa molto molto interessante è quella che ha riguardato Medicine Show, che è il secondo long playing dei Dream Syndicate, che uscì originariamente nel 1984. Dream Syndicate, nella figura di Steve Wynn, che da sempre nel leader, stanno ripubblicando, ampliati forse anche all'eccesso, tutti i loro album, sono stati diversi, e questo Medicine Show da long playing che era è diventato un box set di 4 CD con un sacco di canzoni dal vivo inedite. Alcune lasciano un po' il tempo che trovano qualitativamente parlando, ma altre sono molto interessanti. Il terzo dischetto di questa ristampa, che è stata pubblicata il 17 ottobre, si chiama The Road to Medicine Show, perché è stato fatto durante un tour in cui la band anticipava dal vivo i brani che sarebbero poi comparsi nel loro secondo album. In particolare la registrazione si verte su un concerto effettuato al CBGB's di New York nel 1983, non è dato sapere la data esatta, è dato sapere però che fra le tante canzoni che hanno fatto in quella serata c'era anche questa, che si chiama Bullet With My Name On It. Loro sono Dream Syndicate. Saw me walking around. Swear I'd try to disappear. I wouldn't make a sound. Something came in my room on the run. It's gonna be the last time that you hold my gun. Yeah, your bullet's got my name on it. Your bullet's got my name on it. Gotta run away, run away. Gotta run away, run away. Yeah. I had a dream. I was all alone. I had a mouth, but I couldn't speak. Something made me turn my head. yeah, was someone just like you. You had me by the throat again, yeah. Your bullet's got my name on it. Oh, your bullet's got my name on it. Gotta run away, run, run away. Run away. I got lucky. Your bullet's got my name on it. Your bullet's got my name on it. Oh, gotta run away, run, run away. Yeah, gotta run away. I said, hey, bullet's got my name on it. Gotta run away. Boys. Yeah. wish I could. Why? Oh, isn't it wild? Ain't fucking cool. Now we're gonna pick it up little by little. Get down on the street, motherfucker. Lo chiamano ancora Montreux Jazz Festival, ma di jazz c'è rimasto veramente ben poco. Fatto sta comunque che il 6 luglio del 2023 Iggy Pop era sul palco del Montreux Jazz Festival e ha pubblicato quel concerto in versione CD più DVD. E quello che ci siamo ascoltati si chiama Net Clubbing. Iggy Pop non ha bisogno di presentazioni, e dirò solamente che ha fatto un sacco di album dal vivo e che questo Montreux Jazz Festival 2023 è uscito il 24 gennaio dello scorso anno. Siamo così arrivati alla fine di questa trasmissione, di questo best del 2025. Ci sarebbero ancora tante cose dal lato americano, ne cito solamente qualcuna: i Go-Go Dolls con una ristampa anche loro, Foo Fighters hanno pubblicato un extended play live solamente in download, Neil Young non ha mancato l'appuntamento quest'anno con un album live che si chiama Coastal, mentre l'ha cannato, come si suol dire, il buon Joe Bonamassa, che quest'anno non ha pubblicato niente dal vivo, stranissimo, e Band of Athens che hanno pubblicato una registrazione effettuata per Rock Palace tedesco. Questo è tutto per oggi, vi lascio in compagnia di una band che si chiama Sixpence Non The Richer, una band che ha molto successo negli Stati Uniti, soprattutto in quello che viene chiamato il circuito del Christian Rock. Io vi ricordo che vi siete ascoltati questa versione particolare di Città Fujiko Live Club. Mercoledì prossimo ritorneremo alla versione originale e quindi rimanete all'ascolto. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento appunto mercoledì prossimo. Vi lascio con i Sixpence Non The Richer, il brano è una cover, l'unica di oggi, si chiama There She Goes. Ciao a tutti da Nevio.